Ormai un anno e mezzo fa la società che gestisce il sito della discarica aveva presentato l'ennesima richiesta di ampliamento della discarica stessa per poter conferire ulteriore oltre 400.000 tonnellate di nuovi rifiuti. Noi come Legambiente ci eravamo subito mobilitati perché francamente questa richiesta non era legata a nessuna reale necessità di fabbisogno di smaltimento dei rifiuti speciali per quanto riguarda la nostra regione. Siamo andati oltre, abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding che ha visto l'adesione di un centinaio di liberi cittadini che ci hanno consentito di presentare un progetto alternativo, vale a dire la realizzazione sull'area della discarica di un grande parco fotovoltaico che risponderebbe invece a una necessità reale che è quella di produrre energia da fonti rinnovabili, in particolare appunto dal solare, sul quale purtroppo la nostra regione è gravemente in ritardo. Invece appunto la settimana scorsa la regione ha dato autorizzazione per conferire ancora più rifiuti. La regione ha consentito alla società, che aveva fatto una richiesta appunto di un periodo di circa 2 anni e mezzo per poter conferire la quantità di rifiuti richiesta, gli ha concesso un periodo più ampio, perché nel periodo stabilito non sarebbe stato possibile conferire quella quantità, e quindi gli ha concesso un ulteriore periodo fino a 3 anni e mezzo di tempo. Ma il fatto grave per quanto riguarda la quantità di rifiuti è quello che è avvenuto anche a livelli di democrazia, cioè nel senso che il comune, che inizialmente era su posizioni abbastanza favorevoli all'ampliamento, a seguito dell'impegno della nostra associazione e dei cittadini, aveva presentato in conferenza dei servizi, aveva recepito le sensibilità dei cittadini e aveva presentato in conferenza dei servizi una precisa richiesta dove si diceva che la società avrebbe dovuto ripresentare il progetto con quantità conferibili nettamente inferiori a quelle del progetto iniziale. La regione invece in conferenza dei servizi non ha tenuto conto di nulla di questo. Quindi è andata dritta per la sua strada senza ascoltare né i cittadini né in questo caso neanche il sindaco e l'amministrazione. È vero che i rifiuti che vengono conferiti nella discarica di Castelmaggiore provengono anche da altre regioni? Sì, assolutamente vero. Infatti questa è l'altra cosa grave, mentre da un lato ci si dice che è necessario rispondere appunto a una richiesta di fabbisogno di smaltimento di rifiuti speciali per la nostra regione, l'Emilia Romagna, in realtà buona parte di quei rifiuti che troviamo ora lì abbancati in una montagna che ha raggiunto ormai 30 metri, proviene per circa il 30-40% da fuori regione, perché sono rifiuti che sono sottoposti essenzialmente alle sole leggi del libero mercato e quindi la società che li gestisce va a prenderli dove riesce a trovarli al prezzo che gli consente il guadagno maggiore. L'altra cosa ancora più grave, se vogliamo, è che si continua a portare in quel sito il rifiuto, lo scarto, vale a dire le scorie che si ottengono dall'incenerimento del frullo, inceneritore del frullo di Bologna, che è l'unico inceneritore in tutta l'Emilia Romagna che anziché avviare le scorie a riciclo, come sarebbe possibile, come lo è possibile ormai da diversi anni, preferisce mandarle appunto alla discarica. Cosa gravissima, perché in discarica, come sapete, dovrebbero andare solamente i rifiuti che non possono essere riciclati. Nel 2015 la Regione Emilia Romagna aveva approvato una legge su rifiuti zero, si parlava anche di circolarità. Queste politiche però sembrano in controtendenza. Sì, assolutamente. I problemi sono due. Allora, da un lato, ad esempio, mentre quel piano rifiuti prevedeva l'introduzione della tariffa puntuale, vale a dire più rifiuto indifferenziato produco, quindi meno mi comporto correttamente dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, più pago. In realtà la tariffa puntuale è sostanzialmente rimasta inapplicata. Casualmente, il principale gestore, uno dei principali multiutility della regione, è quella che vede nelle proprie aree di gestione la percentuale più bassa di rifiuti che vengono differenziati e avviati al riciclo. L'altra cosa purtroppo grave è quella che riguarda appunto i rifiuti speciali, che non dobbiamo dimenticare che costituiscono la parte assolutamente più importante sul totale dei rifiuti, e su questi purtroppo non c'è una vera regolamentazione. Questo è un problema che non riguarda solo la nostra regione, per essere corretti è un problema nazionale, manca purtroppo una legge nazionale che regolamenti appunto questo tipo di rifiuto, che altrimenti è sottoposto solo alle leggi del mercato e quindi sostanzialmente appunto al fatto di poterci guadagnare il più possibile. Non c'è nessun interesse da parte di queste aziende a differenziare chiaramente, tantomeno a riciclare. Questa decisione di prorogare i termini di questa discarica di fatto ha ostacolato il progetto per realizzare del fotovoltaico. Questo era un fatto assolutamente importante, cioè un evento io direi straordinario, no? Si dice sempre che i cittadini non partecipano alla vita pubblica, in realtà in questo caso si è fatto addirittura di più, cioè i cittadini si sono autotassati per sostenere una propria proposta, una proposta molto concreta, la realizzazione su quel sito di un parco fotovoltaico che avrebbe consentito di generare energia elettrica in grado di soddisfare la richiesta di oltre 1700 famiglie per l'arco dell'anno, ogni anno. Noi non ci arrendiamo da questo punto di vista, reputiamo che sia una proposta assolutamente interessante e quindi la vogliamo rilanciare. Proprio qui da questa emittente voglio dare una notizia, cercheremo i prossimi giorni di incontrarci con l'amministrazione di Castelmaggiore, coinvolgeremo la sindaca, perché vogliamo aprire un tavolo con ASA, la società diciamo che gestisce la discarica, per vedere se è possibile nell'area dove attualmente diciamo è presente la discarica esaurita, perché quell'area diciamo è suddivisa in due lotti, uno che è tuttora aperto e uno invece che ormai è esaurito da anni. Ecco, su questo secondo noi vogliamo spingere la società a recepire questa nostra proposta che ci sembra molto interessante. Tra l'altro è in corso di approvazione, dovrebbe essere approvata a breve, la nuova legge che riguarda le comunità solari e quindi sarebbe un bellissimo modo diciamo di uscire da questa triste vicenda coinvolgendo i cittadini di Castelmaggiore nella produzione di energia rinnovabile.